si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Sabato da Federico Taddia, eccoci qua per la giostra delle sostituzioni, la giostra delle vacanze. Oggi ho il piacere di sostituire Alessio Maurizio e Carlo Gabardini, giustamente a riposo dopo il lavoro quotidiano di questi giorni, ma l'Italia è migliore, l'Italia è bella, l'Italia è piccola, l'Italia è nascosta, la racconteremo anche oggi e domani. Piccole e grandi storie, come sempre, in questa prima puntata dell'anno, dove ovviamente daremo spazio ai buoni propositi e alle vostre bacchette magiche. Cosa vi piacerebbe cambiare in questo paese per farlo davvero diventare un paese migliore? 800 24 00 24, il numero verde, dalle 8:15 saremo qua pronti ad aspettare, ad accogliere le vostre telefonate. Quindi 800 24 00 24, piccole grandi storie come sempre, due su tutte. Andremo all'aeroporto di Malpensa per conoscere alcune delle oltre 100 persone senza fissa dimora che in quel aeroporto vivono, e poi andremo in Iraq per conoscere la storia bella e colorata di un naso rosso, di un clown italiano che sta passando queste vacanze là per far giocare i bambini in strada. Questo è Si può fare. Apriamo come sempre con l'edicola. L'edicola di Si può fare, do il ben ritrovato e il buon anno a Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao, buongiorno. Tra l'altro è vero che da oggi i giornali sono più cari, da oggi costano 10 centesimi in più il Corriere della Sera, La Stampa e La Repubblica, quindi mai canzone fu scelta meglio. Andiamo con te a conoscere le notizie più significative di oggi. Grazie Federico. Purtroppo sulle prime pagine dei giornali oggi non c'è l'Italia migliore, ma forse potremmo dire quella peggiore, riferimento naturalmente è alla vicenda di Roma dei Vigili, alla quale oggi tutti dedicano, potremmo dire, decine di pagine. Allora cominciamo dal Corriere della Sera, il titolo è Linea dura sugli assenteisti, il governo sottrarrà i controlli alle ASL, i sindacati sono divisi e restano le minacce di sciopero. Dal Corriere della Sera vi segnalo a pagina 4 su questa vicenda un articolo di Rinaldo Frignani che si avvale di due tabelle. Proprio ieri dicevamo, leggendo un articolo di Marco Travaglio, quanto sono importanti i numeri. Ecco, queste due tabelle sono veramente impressionanti. Il titolo dell'articolo è La gente a casa, nessuno poteva costringerci. Sergio Fabrizi dell'UGL, sapete, uno dei sindacati, un sindacato quello più a destra tra i sindacati confederali, spiega al Corriere che lui è tra quelli che ha scelto di non lavorare oltre l'orario, e spiega anche che il comandante lo sapeva da 15 giorni, quindi implicitamente dicendo che non è vero che è stata una sorpresa dell'ultimo momento. Tutto da accertare, perché in questo momento sono dichiarazioni di una parte contro quelle dell'altra. Ma vi dicevo i numeri. In questa tabella c'è il numero medio dei giorni di malattia all'anno per regione nel settore pubblico. In testa c'è la Calabria con 20,9, seguita da Sardegna 18,8, poi si va scalando. Le altre regioni sono Abruzzo, Basilicata, Sicilia, Umbria, Molise, Lazio, Campania, Friuli, Venezia, Giulia. A metà classifica troviamo la Liguria con 16,6 giorni. E poi Puglia, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Trentino, Alto Adige, che ha la media più bassa, 15,1. Poi c'è un altro schema illuminante, ed è quello di come sono distribuiti i giorni di malattia. Che strano, la maggior parte sono al lunedì. Gli eventi di malattia per giorno d'inizio, il 28,6% sono di lunedì, e anche qui si va scalando, soltanto l'1,8% è di domenica, cioè di domenica non ci si ammala, mentre ci si ammala molto di lunedì. E questo era il Corriere. Dal Corriere vi segnalo l'articolo di Sergio Rizzo, che non poteva perdersi un'occasione ghiotta come questa. Che fa? Il suo articolo è, in realtà prende spunto dal film con Alberto Sordi, che è stato nel 1960 protagonista del film Il Vigile, un film di Luigi Zampa. Il nome Pizzardone viene dal tipo di cappello, ma ci spiega Sergio Rizzo che usa così questo spunto di costume, però in realtà anche qui parliamo di numeri. E allora ve li leggo. A Roma i vigili sono potentissimi, addirittura addirittura più del sindaco, si è sempre detto. Se ne contano 6.077. Sul Corriere, sulla pagina che vi dicevo prima, c'è anche il numero di vigili per città. Roma è quella che ne ha di più, seguita da Milano, Torino e Palermo. Se ne contano, dicevamo, 6.077. Tuttavia ce ne sono costantemente in giro per la città, che ha il più alto numero al mondo di auto, sono 70 ogni 100 abitanti, quindi ce ne sono in giro da un minimo di 105 la sera a un massimo di 993, ovvero dall'1,7 al 16,3% della forza complessiva. Il tutto fra strade disseminate di vettura in seconda fila e mai una contravvenzione sotto il tergicristallo. La produttività spiega molte cose il confronto con Milano. Mentre Roma spendeva per gli stipendi dei vigili il 14,5% più del fabbisogno standard, Milano risparmiava il 38,3%, con 154 multe mediamente a testa fatte a Roma contro le 370 di Milano. E le 27.990 sanzioni di altro genere elevate dai 6.000 vigili romani contro le 79.870 dei poco più di 3.000 colleghi milanesi. Stessa apertura per la Repubblica, che ha un titolo che la rende un po' più generalizzata, ma il tema è quello di questo scandaloso assenteismo romano nella notte di Capodanno tra i vigili romani. Statali ora si cambia, licenziamenti più facili, INPS a caccia dei malati, perché ricordiamolo sempre, questi certificati di malattia non è un'autocertificazione, ci sono dei medici compiacenti che li firmano. Dalla Repubblica vi segnalo due interviste, una a Ignazio Marino, il sindaco di Roma, e l'altra a Pietro Ichino, il giuslavorista di Scelta Civica. Quella di Marino, secondo me, è un po' da mani sul volante, però ve ne leggo una parte, a pagina 5. Allora gli chiede Tommaso Ciriaco: partiamo da quell'83% di assenteismo della notte di Capodanno, sindaco, perché umilia la capitale e chi lavora? Che effetto le fa? Questa è la prima domanda che Tommaso Ciriaco fa a Ignazio Marino. Ignazio Marino cosa risponde? Sono rimasto molto male. Nella stragrande maggioranza dei casi, dipendenti del comune e lavoratori della polizia locale sono persone per bene. Certo, è perché qui parliamo sempre di minoranze per male, però così è come sempre, scusatemi, di una banalità sconcertante le giustificazioni, il modo di reagire di Marino ai vari problemi. Vi leggo altre due domande. Scusi, ma non ci sono responsabilità dell'assessore competente e del comandante dei vigili? Risposta: l'assessore competente sono io. E allora verrebbe da dire: spiegaci qual è la tua responsabilità. Ma lui risponde così. E poi: quanto al comandante, la responsabilità è quella di fare ogni sforzo per rendere il lavoro dei vigili più efficiente e rispondente ai bisogni dei cittadini. Gli chiede Tommaso Ciriaco: non saranno troppi i dipendenti della polizia locale? E Marino risponde: sono 6.200, sembra un numero elevato, ma in realtà non lo è. Però non ci spiega perché sembra un numero elevato, ma non lo è. Ci dice invece il problema piuttosto è che ci sia rigore ed efficienza sul posto di lavoro. Bene, questo era Marino sulla Repubblica. La Stampa ha la fotonotizia dedicata al rito della Norman Atlantic, che, come avete sentito anche nei GR, è stato trainato da un rimorchiatore e ieri è entrato nel porto di Brindisi. Si sono già iniziati i sopralluoghi del PM che continueranno. Il titolo sotto la fotonotizia: il traghetto brucia ancora e la procura conferma ci sono 10 dispersi. Ma il titolo, in realtà quello più alto nella pagina, scusate, è: vigili assenteisti, il governo promette saranno puniti. Qui ci sono anche qua tantissimi approfondimenti. Vi segnalo in particolare l'articolo a pagina 3 di Mattia Feltri, che, se vogliamo, serve, forse aiuta anche me, che sto prendendo forse questa vicenda troppo sul serio, ma la trovo talmente grave e sono spaventata io stessa dal fatto che probabilmente poi nel medio termine le tanto invocate conseguenze non ci saranno, come è successo tante volte in passato, ma vedremo, forse sono troppo pessimista. In ogni caso, la storia di Mattia Feltri, il Trimba ed esci e l'opzione Fantozzi. E qui sembra tutto non vero, ma in realtà è tutto vero. Mattia Feltri ci racconta altri casi di assenteismo eclatante. Allora, per esempio, al distretto sociosanitario di Catanzaro Lido, 95 assunti su 120 erano dediti ai fatti loro, indipendentemente dal calendario. Si era registrato un altro caso piuttosto bizzarro: la macchinetta elettronica destinata a rilevare le presenze si guastava con frequenza persino superiore a quella con cui si guasta la salute dei lavoratori. Nel 2013 i carabinieri si fecero venire un dubbio e saltò fuori che medici, infermieri, dirigenti e amministrativi, quindi una vasta rappresentanza della società civile, timbravano il cartellino e poi andavano al supermercato dal barbiere. Di notizie del genere se ne trovano decine ogni anno. Al Teatro Bellini di Catania avevano escogitato un sistema diverso. Si facevano pagare come straordinari le ore di permesso sindacale. E siccome non vorremmo passare per discriminatori territoriali, ecco a voi l'illustre caso dei 77 dipendenti, su poco più di 100, della regione a Rovigo, che si volatilizzavano in orario d'ufficio, e quelli delle soprintendenze del Friuli Venezia Giulia, dove i più vivaci arrivarono ad accumulare 110 ore di assenza in 3 mesi. Il Messaggero ha il titolo forse più grande su questa vicenda ed è anche il più esplicito: il governo contro i vigili di Roma. Ci saranno, pare, subito delle sanzioni agli assenteisti di Capodanno. È stata aperta un'inchiesta del comune, è stata fatta una denuncia in procura e Renzi ha detto che bisogna coinvolgere l'INPS per fare dei controlli migliori sulle malattie. C'è tra l'altro l'intervento del garante per gli scioperi, che ha detto che se questo è uno sciopero mascherato in qualche modo potrebbero arrivare multe fino a 50.000 euro. Dal Messaggero però vi segnalo una notizia che non ho trovato sugli altri giornali, ed è quella su un maxi concorso che è stato indetto dalla RAI. Ci sono, pensate, 9.000 domande per 100 posti, tra l'altro per 100 posti da precario. Cambiamo argomento e il Sole 24 Ore apre sulle parole di Draghi, che le abbiamo citate anche nella rassegna stampa europea, ma insomma è da ieri che se ne parla di questa intervista a Handelsblatt e dei piani, delle strategie che il presidente della BCE ha preannunciato, tra i quali c'è il famoso QE, cioè il quantitative easing. Draghi spinge i tassi ai minimi, BTP all'1,74%, spiega il Sole 24 Ore, con servizio le pagine 2, 3, 25 e 26, lo spread ancora in calo a 124 e l'euro finalmente cade ai livelli del 2010. Sapete che per molti mesi, molti, troppi mesi, tra l'altro con gravi conseguenze per un paese come il nostro che si regge, specie in tempi di crisi, sull'export, per molti mesi l'euro è stato ipervalutato rispetto al dollaro. Adesso appunto questo percorso è stato invertito. C'è naturalmente la vicenda dei vigili assenteisti, la trovate anche sul Sole con un articolo di Giorgio Pogliotti, e poi in grande evidenza questo segnale di ripresa importante che è venuto ieri dal mercato dell'auto: le vendite tornano a crescere dopo 7 anni, le immatricolazioni in Italia infatti sono cresciute nel 2014 del 4,2%. In edicola con il Sole di oggi anche Plus, il settimanale dedicato alla finanza e al risparmio. La copertina guarda un po' al 2014 per aiutarci a fare le scelte sul 2015, ecco i gestori che battono i mercati. Con l'aumento della volatilità sui listini finanziari, nel 2014 solo il 19% degli strumenti ha ottenuto una performance superiore al proprio benchmark. C'è la classifica all'interno di Plus e i più flessibili, con il primo e ultimo che sono addirittura staccati del 93% quanto a rendimenti. Paolo Zucca, l'articolo di copertina è suo: gennaio darà segnali forti per tutto l'anno. Ricordiamo tra l'altro appunto questa data del 22 gennaio, abbiamo parlato di quantitative easing. Capiremo presto, scrive Paolo Zucca, di che pasta è fatto il 2015. Il 22 gennaio è fissata la riunione della BCE, che dovrà dare corpo agli annunci di avvio del quantitative easing, l'emissione di liquidità e l'acquisto di titoli pubblici. La copertina del dorso di Finanza e Mercati ha molte notizie, tra le quali quella sul Club Med, ce lo racconta Marco Mussanè, corrispondente da Parigi. Bonomi si ritira, quindi Andrea Bonomi, l'investitore italiano, si è ritirato, mette in vendita la sua quota. Molto probabilmente adesso la catena di villaggi andrà a Fosun, che è un conglomerato cinese che tra l'altro ha fatto anche alcune interessanti operazioni in Italia. Ricordo per esempio l'acquisto di un'azienda italiana, la Caruso, di abbigliamento di lusso, soltanto una quota di minoranza, però insomma si sta muovendo molto in Europa, in Francia, ma appunto anche in Italia. Molte altre le notizie. C'è un'inchiesta di Carlo Festa che ci spiega come nel 2014 a livello globale c'è stato un record di IPO, di Initial Public Offerings, cioè di sbarchi in borsa di aziende che prima non erano quotate. Continua naturalmente, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, l'approfondimento del Sole 24 Ore sulla legge di stabilità. Siamo alla quinta puntata. Oggi ci si occupa in particolare di autonomi e imprese, quindi tutta questa guida delle novità che sono in vigore dal 1 gennaio. Il titolo dell'articolo principale è minimi il forfè al 15% alla prova della convenienza, sotto esame le differenze nel carico impositivo dopo il restyling del regime. Sono due pagine, la 16 e la 17, dedicate appunto ad autonomi e imprese, tutte le regole, come cambiano le regole. Dal Sole 24 Ore, sempre nel dorso di norme e tributi, anche tutta la questione dell'evasione e della lotta al sommerso. Dal primo gennaio infatti è in vigore la disposizione che punisce il reimpiego e il trasferimento del denaro frutto di illeciti. L'evasione infatti ha trascinato l'autoriciclaggio, anche le violazioni tributarie già prescritte possono determinare il nuovo reato, e Laura Ambrosi e Antonio Iorio ci spiegano esattamente quali sono queste nuove regole. La prima pagina dell'Avvenire è dedicata alla vicenda di Roma, assenteisti pubblici, scoppia una bufera, e direi che è stato proprio così. Trovate a pagina 7 anche un'intervista alla neo segretaria della CISL, Anna Maria Furlan, che dice: da noi non ci sarà nessuna copertura, sia le sanzioni, poi questo è il titolo, poi se leggete l'intervista ci sono molti distinguo fatti dalla Furlan, ma comunque il proclama mi sembra comunque importante. Il titolo del Giornale, vigliacchi di Stato, riferito agli assenteisti di Capodanno, con un articolo di Alessandro Sallusti e molti approfondimenti che riguardano tutto quello che non funziona a Roma, e naturalmente il giornale prende un po' la palla al balzo per rielencare tutte le critiche fatte al sindaco Marino nei mesi scorsi. Ci lasciamo un attimo per il traffico e ci ritroviamo subito dopo. Si può fare cronache da un paese migliore. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, oggi ospite di Si può fare, però sempre qui con i nostri giornali, le nostre copertine. Dopo quella del Giornale vi segnalo quello di Libero, che anziché concentrarsi sulla vicenda degli scioperi dell'assenteismo, scusatemi, dei vigili romani, ricordiamo 83% nella sera di Capodanno, si concentra su Draghi. Il titolo è Ci basta Re Draghi, il disegno è quello di appunto una specie di caricatura di Mario Draghi seduto su un trono con tanto di corona in testa, e la tesi di Maurizio Belpietro è: non eleggiamo il successore di Napoletano, risparmiamo soldi, prediche e arbitri di parte, eleggiamo Draghi. Il problema è che lo stesso Draghi, lo sappiamo, lo abbiamo sentito in tutte le salse, proprio ieri a Handelsblatt, al quotidiano tedesco Handelsblatt, ha dichiarato: io non ci penso nemmeno di candidarmi o farmi candidare alla presidenza della Repubblica Italiana, io resto come governatore della BCE fino alla fine del mio mandato, che sarà nel 2019. Prima pagina del Fatto Quotidiano parla della questione dell'evasione fiscale, che abbiamo visto anche sul Sole 24 Ore, su come cambiano le norme dal primo di gennaio. Evasione fiscale e frode, condono di Palazzo Chigi, come questo è proprio un esempio chiaro di come si possono raccontare le cose in modo neutro oppure prendendo posizione fin dal titolo. E scrive il Fatto Quotidiano: nel decreto di Natale una norma infilata all'ultimo salva chi nasconde all'erario grandi capitali, basta che sia sotto il 3%. Tensione con il tesoro che si era opposto, questo retroscena raccontato dal Fatto Quotidiano. Marco Travaglio si esercita ancora una volta in una critica abbastanza dura al premier Renzi e a come secondo lui viene trattato con eccessiva deferenza dalla maggior parte dei quotidiani italiani. Il titolo si chiama Selfie e Moschetto, e c'è addirittura un paragone con il modo in cui i quotidiani italiani trattavano Benito Mussolini. A questo arriva così l'avversione di Marco Travagli per Matteo Renzi. E su Matteo Renzi il titolo che parla della vicenda romana: Renzi alla crociata dei vigili. Il Manifesto titola Fischi e Botti, e la foto sembra quasi un fotomontaggio, ma credo che sia proprio solo una foto molto fortunata dell'agenzia Eidon. C'è un vigile di spalle in lontananza si vede una colonna e sopra la lupa con Romolo e Remo che vengono allattati appunto dalla lupa, il simbolo di Roma. Il titolo è: i vigili di Roma disertano in massa al lavoro la notte di Capodanno, 8 su 10 presentano un certificato medico, il sindaco Marino accusa uno sciopero selvaggio, la CGIL condanna le assenze ma altri sindacati le difendono. Renzi coglie la palla al balzo e prepara un Jobs Act anche per il pubblico impiego. E poi la prima pagina della Gazzetta dello Sport, l'avete sentito anche nei GR. Ieri sera è arrivato Alinate Podolski, il giocatore tedesco che giocherà in prestito all'Inter. Ha detto: sono felice di essere qui e potrebbe già giocare contro la Juventus. E ora Mancini cerca, secondo la Gazzetta, il secondo esterno, che potrebbe essere Shaqiri, Lavezzi o Januzaj. Pista aperta per Diarra, quindi altre notizie di calciomercato, che è sicuramente un tema che appassiona molti. Ma veniamo un po' alle pagine interne dei giornali, perché sono tantissime le notizie oggi. E ritorniamo sul Corriere della Sera. C'è una bellissima intervista a Gate Lees, o Talese se lo leggiamo da italiani, che è un giornalista e scrittore americano, ha lavorato tanto, ha scritto tanto per il New York Times, e Ennio Caretto gli ha chiesto un po' di raccontare dal suo punto di vista la figura di Mario Cuomo, ex governatore dello Stato di New York, morto due giorni fa, 82 anni. Gli chiede: è vero che Mario Cuomo rifiutò di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti perché un membro della famiglia era sospettato di legami mafiosi e gay? Talese risponde: penso di no, anche se Bill Clinton, suo compagno di partito, che temeva di essere eclissato da lui, vi accennò nel corso della vittoriosa campagna elettorale del 92. Cuomo era un uomo molto riservato, molto protettivo della famiglia e molto lontano dai pettegolezzi e dagli scandali. A mio parere non si sentì di pagare il prezzo familiare e personale che le nostre elezioni comportano. Non gli fu facile, tenne l'America in sospeso per mesi e mesi, tanto che lo definirono un Amleto. E poi l'ultima domanda: sarebbe stato un grande presidente? Immagino di sì. Alla Convention Democratica di San Francisco del 1984, da cui emerse anche Geraldine Ferraro, la prima italo-americana candidata alla vicepresidenza, Cuomo tenne un discorso trascinante come non se ne sentivano dai tempi di Kennedy. Per quanto concerne la politica, non aveva nulla di amletico. Era dalla parte dei deboli, praticava la politica dell'inclusione. Non sapremo mai come sarebbe l'America oggi se fosse stato presidente per 8 anni. E poi un interessante approfondimento, la notizia la trovate su tutti i giornali, perché ieri è stato pubblicato uno studio su Science messo insieme dagli scienziati della Johns Hopkins University di Baltimora negli Stati Uniti, che è una delle più prestigiose università con dipartimenti di ricerca medica. Da questo studio emerge che 2 tumori su 3 sono colpa del caso e non appunto dei famosi fattori di rischio, addirittura dei fattori genetici. Gli oncologi, però, molti oncologi italiani e non solo, si sono affrettati a rispondere: gli stili di vita restano decisivi. E c'è un'intera pagina di Mario Pappagallo che ci spiega tra l'altro quali sono i tumori più frequenti in Italia. Quello più diffuso in assoluto è il tumore al colon, con 55.000 persone colpite all'anno, e subito dopo viene il tumore al seno. Secondo i dati appunto raccolti che già esistevano prima della pubblicazione di questo studio, il 70% dei tumori può essere prevenuto da stili di vita corretti e diagnosticato in tempo con i protocolli di screening e diagnosi precoce. Siccome al sabato il Corriere ha questo supplemento tempi liberi, vi segnalo l'intervista di Paola Pollo a Dolce Gabbana, che in questo caso si concentrano soprattutto sul loro rapporto con il cinema, e in particolare è il cinema siciliano, e quindi appunto il titolo: il neorealismo di Dolce Gabbana. Federico Rampini ci racconta come una recente rivelazione della CIA spieghi che molte delle apparizioni, supposte apparizioni di UFO negli anni 50, di avvistamenti di UFO, in realtà erano voli di aerei spia. Una notizia che, lanciata da un tweet della CIA, è stata poi rilanciata in ogni modo ieri sulla rete. Ma vi segnalo due pagine molto interessanti, pagina 22 e 23 della Repubblica, su Papa Francesco. Ieri, tra l'altro, me confesso era sfuggito, forse perché non avevo guardato la parte sinistra della copertina con l'editoriale, questo editoriale del direttore di Avvenire Marco Tarquinio, che ha cercato in questo editoriale di spiegare come bisogna difendere Papa Francesco da tutti quelli che remano contro. E allora Marco Ansaldo spiega in queste due pagine: tutti i nemici di Papa Francesco, il riformismo che turba i fedeli, e scatta un appello in sua difesa. C'è appunto addirittura un vero e proprio appello, a cui poi ha aderito per esempio Don Luigi Ciotti, che spiega anche perché alla pagina 23 della Repubblica. E tutto è stato anche un po' innescato da un articolo apparso subito prima di Natale sul Corriere della Sera, scritto da Vittorio Messori, dove questo esperto di questioni cattoliche diceva di essere comunque perplesso dalla figura di Francesco. E da qui, insomma, secondo il direttore di Avvenire, la necessità di comunque ribadire, di difendere Papa Francesco, perché sicuramente i grandi riformisti incontrano spesso grandi resistenze. Dalla Stampa un approfondimento: chi entra nell'euro, chi potrebbe uscire? La Lituania punta sull'Unione Europea per continuare a crescere e tenere a bada le mire di Putin, ma c'è l'incubo del debito e la linea dura della Germania che mettono la Grecia di nuovo in pericolo. Appunto, un interessante approfondimento di Marco Zatterin, corrispondente da Bruxelles, su quello che potrebbe i turbamenti che potrebbero esserci nei membri dell'Unione Europea nel 2015. Dal Messaggero vi segnalo un'intervista all'attore che ha interpretato Timothy Spall, che ha interpretato il pittore William Turner in questo film di cui abbiamo parlato anche ieri, di Mike Lee, che uscirà il 29 gennaio nei cinema. Questo attore era a Capri per il Capri Film Festival e ha appunto raccontato come ha vissuto, come ha interpretato, come ha studiato per riuscire a interpretare il suo scorbutico Turner. William Turner, ricordiamo, vissuto tra l'Ottocento e il Novecento, forse uno dei più importanti pittori inglesi. Dall'Avvenire, che come sempre ha degli approfondimenti interessanti, oggi come sapete iniziano i saldi nelle 18 regioni in cui non sono iniziati ieri, cioè ieri solo Campania e Basilicata, quindi c'è un po' un approfondimento su quello che spenderanno gli italiani, le previsioni, ma soprattutto segnalo questa notizia: Zalando, credo che tutti noi lo conosciamo, è questo sito che vende soprattutto scarpe, ha fatto tantissima pubblicità in rete negli ultimi mesi e come a volte succede, le aziende che nascono sulla rete poi sentono un fascino irresistibile per invece il mondo reale. Quindi Zalando, che ha fatto la sua fortuna in rete, adesso aprirà due negozi fisici, brick and mortar, dicono gli inglesi. L'ultima notizia che ho tempo di segnalarvi, credo, perché Federico è già entrato qui e anche Peter Bescafè in regia mi fanno segnali che non devo sforare, dal Manifesto: contrordine compagni, gay non sono malati, una storica sentenza di un tribunale di Pechino contro le cliniche che pretendono di curare l'omosessualità con ipnosi e scariche elettriche. Qui mi collego invece a un articolo inquietante uscito sulla Repubblica, alle pagine di Milano: i gay vanno curati. La regione Lombardia, con la sua sede a Milano, ha ospitato questo convegno definito omofobo, dove appunto si è parlato del fatto che essere gay è una malattia che si può curare. E c'è un'intervista a Cecchi Paone, forse uno dei primi personaggi della televisione a fare un coming out qualche anno fa, che dice: una tesi antiumana per il centrodestra è un problema, perché a volte spesso appunto queste posizioni, anche se abbiamo detto che erano le posizioni del più grande paese comunista al mondo, insomma a volte sono più diffuse, sembrano più diffuse nel centrodestra che nel centrosinistra, queste di omofobia. Si può fare cronache da un paese migliore. Buon sabato da Federico Taddia, siamo in diretta, questa è Radio 24, questo è Si può fare, l'appuntamento del weekend dedicato all'Italia migliore, raccontare un paese nascosto, un paese piccolo, ma un paese che si muove, che fa tanto rumore. Alessio Maurizio e Carlo Gabardini, i padroni di casa, ma vista la giostra anche delle vacanze natalizie, delle vacanze invernali, oggi sono io alla guida e ho il piacere appunto di condurvi alla scoperta del nostro paese più bello. Lo facciamo guardando al futuro, parlando di buoni propositi, parlando di bacchetta magica. Cosa vi piacerebbe cambiare? Qual è il vostro buon proposito personale? Cosa vi piacerebbe, dove vi piacerebbe incidere nella vostra quotidianità per cambiare davvero le cose? Giocando sì anche con la bacchetta magica, ma cercando di andare oltre la retorica. Aspettiamo le vostre chiamate in diretta. 800 2400 24 è il numero verde, 349 238 6666 invece per i vostri sms. Poi ci sono le solite piattaforme virtuali, Facebook e Twitter, @FedericoTaddia, il mio account personale su Twitter, poi ritwittiamo anche sull'account di Si può fare, perché per esigenze tecniche oggi appunto usiamo il mio personale. Quindi cosa vi piacerebbe cambiare? Vi do una bacchetta magica, sta a voi. Avete un anno di tempo per cambiare le cose da dove vi piacerebbe partire. 800 24 00 24. Adesso le informazioni per chi sta viaggiando, poi qua in diretta con Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccolo qua il paese migliore, Federico Taddia. Due ore insieme fino alle 10. Andiamo a scoprire storie grandi e piccole, storie italiane, ma non solo, storie virtuose, ma anche storie di denuncia. E poi le vostre storie, le vostre telefonate. 800 24 00 24. Oggi vi invito proprio a tirar fuori buoni propositi, quelli di inizio anno. Però davvero, cosa è fattibile? Vi piacerebbe uscire di casa? Vi piacerebbe bussare alla porta del vostro comune e chiedere di cambiare davvero qualcosa, ma mettendoci la faccia, mettendoci l'impegno, oppure la bacchetta magica, come ho detto prima, per cambiare anche grandi cose? Dove vi piacerebbe concentrare il vostro impegno? 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666 per i vostri buoni propositi. Come sempre, per il più bello, il più divertente, il più intelligente, il più bizzarro, due biglietti omaggio per la mostra di Chagall qui a Milano. Si parte, andiamo con i buoni propositi. Sabato è sempre sabato, anche di lunedì sera è sempre sabato sera, quando non si lavora è sempre sabato, vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. Strappa le stelle dal cielo, lascia solo i led. Roberto, cosa significa ripartire? Cosa significa trovare il proprio lunedì dopo un sabato che in cui qualcosa è andato storto? Pronto Roberto? Pronto? Eccolo lì, ciao, scusa, ti avevo perso. Eccoci, sì, buongiorno a tutti, scusate. Niente, do il benvenuto a Roberto Bruzzone, sei già noto, sei conosciuto, l'uomo gru, l'uomo con una gamba sola, come preferisci essere definito? Ma guarda, Roberto Bruzzone va benissimo, scherzo. Diciamo che è iniziato tutto quando un mio amico chiamò il mio sito Robby da Matti, quindi va bene quello. Uh-huh. La storia di una sfida vinta, una storia che inizia nel 2000, quando a causa di un incidente ti viene amputata una gamba sotto il ginocchio. Da lì anni di terapia, anni anche di sconforto, e poi qualcosa è scattato, ci dirai cosa, e questa cosa è scattata e ti ha fatto diventare un runner, un camminatore, un esploratore. E il tuo buono proposito dell'anno inizia tra pochissimo, quando il 16 gennaio partirai per un'avventura che ti farà toccare da Perù alla Bolivia, oltre 2000 passa chilometri se non erro. Cos'è successo, questa voglia di partire, da dove nasce? Allora, diciamo che è stata una cosa abbastanza nuova, nel senso, un fulmine a ciel sereno per quanto mi riguarda a livello sportivo, perché prima ho sempre fatto pugilato prima dell'incidente, e poi una volta successo l'incidente, tu giustamente hai detto incidente motociclistico, poi dopo un po' di tempo c'è stata la ripresa. Diciamo che non è proprio così semplice da spiegare, nel senso che tutto forse deriva dal fatto che ci ho messo la bellezza di 4 anni per uscire dall'ospedale, quindi dopo vari problemi, quindi di infezioni, di problematiche veramente pesanti. Sono passati 4 anni, quindi dopo 4 anni uno immagazzina forza, nervoso, motivazione, chiamala come vuoi, e poi è esplosa tutta insieme, perché proprio per mettermi alla prova ho detto va bene. Intanto ho iniziato a tornare sul ring a vedere come potevo muovermi, e lì è stata già la prima rivelazione, perché andavo molto bene. Però non mi bastava, io volevo capire, dal momento che ero rimasto, diciamo, senza una gamba, ho detto devo vedere assolutamente quanto riesco a camminare, cosa riesco a fare con questo arto artificiale. Allora è iniziato tutto, ma quasi per scherzo. Sì. e quindi abbiamo approcciato all'atletica all'inizio, in pista. Però mi stava stretta e il mio allenatore, carissimo amico Alessio Alfier, l'ha capito e mi ha proposto di iniziare a fare qualche passeggiata, diciamo, in montagna prevalentemente. Da lì è scattato l'amore. Anche perché dire passeggiate, vero? Quasi. Sì, no, io sai perché io dico passeggiate? Perché quando lui me lo propose, effettivamente si trattava di passeggiate, no? Uh-huh. E io ci contavo, invece la prima volta che mi disse andiamo in montagna mi ha portato a 4000 metri, quindi esatto. Non troppo di passeggiata si trattava, ecco. Una decina di imprese da record in questi 10 anni, ti abbiamo visto anche a Wild, appunto, la sì. trasmissione televisiva di Italia 1, dove insegnavi tecniche di sopravvivenza, tra virgolette, a Fiammetta Cicogna. E adesso questo nuovo viaggio, dove, se ho capito bene, parti comunque all'avventura, cioè tu ti incammini, ma ti disegni, immagino a livello mentale delle possibili tappe, però poi ti vivi il giorno per giorno. Sì, diciamo che dall'inizio, a parte proprio le primissime imprese, chiamiamole, quindi il Gran Paradiso qui da noi sulle Alpi, il Cammino di Santiago, sono state abbastanza diciamo cose fatte, diciamo, già organizzate, sì. No? Quindi Santiago sì, è stata una cosa lunghissima, quasi 800 chilometri, però ogni 10-15 chilometri c'era la possibilità di avere un ostello e via discorrendo. Poi dopo diciamo che siamo diventati sempre più bravi e abbiamo fatto cose sempre più, diciamo, chiamiamole difficili, tutte organizzate da noi, quindi tutto in autogestione. È nata questa voglia di stare a diretto contatto con la natura direttamente, cercando di arrangiarsi con quel poco che si ha senza appoggiarsi a nessun altro, ecco. Quindi zainone in spalla, a volte anche di 30 kg, e si partiva e si andava. Quindi dopo Santiago abbiamo proprio voluto metterci alla prova al 100%. Ti aspettano adesso 2000 km dal Perù alla Bolivia, come mai hai scelto quelle terre? Guarda, io sono appassionatissimo di siti archeologici, di tutto quello che concerne le vecchie civiltà. E dato che sono stato in Messico, sono stato in parecchi posti del mondo dove ci sono questi siti che raccontano comunque la storia dell'uomo. Certo. E quindi allora il Perù è un diamante, no, su queste cose, perché si passa per tutte le vie Inca, cioè tutti i 2000 chilometri che facciamo sono vie Inca, quindi vie lunghe migliaia di chilometri che hanno costruito in teoria quando non avevano nemmeno la ruota. Uh-huh. E quindi è una cosa che mi appassiona. Poi il Machu Picchu, Cuzco, le linee di Nazca, sono posti che devono essere veramente stupendi. Il tuo sito è robidamatti.it, che verrà aggiornato, sì. Anche credo, insomma, durante la spedizione, per poter viaggiare con te. Un ragazzo come tanti, con una gamba in meno e una marcia in più, così ti definisci sul sito. Anche per te la domanda di oggi, la bacchetta magica per questo 2015, dove e come la useresti? Ma guarda, sicuramente non la userei su di me, la userei su chi soffre più di me e chi ne ha più bisogno, sicuramente. Io ti dico, anche il mio lavoro fa parte di tutto un excursus verso la disabilità, quindi ho visto tante realtà brutte, quindi la userei per quello, sicuramente. Da una mano a chi ne ha bisogno in questo settore, diciamo, in questo mondo. Il 16 gennaio la partenza, buona avventura, e magari ci risentiamo per capire, appunto, lassù tra le vette boliviane come sta andando il tuo giorno per giorno. Grazie davvero, ciao Roberto, buon anno. Ciao a tutti, grazie, buon anno a voi. 800 24 00 24, invece è il numero verde per intervenire in diretta, per raccontarci cosa vi piacerebbe cambiare, come usereste questa ipotetica bacchetta magica. Numero verde che ha composto Amelia da Salerno, che è qua con noi. Ciao Amelia. Buongiorno, buongiorno e buon anno a tutti. Buon sabato e buon anno, ciao Amelia. Grazie. Io ho ascoltato il vostro interrogativo e veramente mi è venuta una gran voglia, un impulso di parlare finalmente. Ho 65 anni, sono da poco in pensione e ho lavorato una vita intera come chissà quanti altri milioni e milioni di persone. Però adesso vorrei una bacchetta magica che desse a tutti, a tutta questa categoria di persone che ha tanto dato, ridesse l'energia. L'energia e la fiducia, perché non è bello ascoltare quello che si ascolta tutti i giorni dalle notizie del radiogiornale, dalla televisione, e chi viene meno al proprio dovere, chi non è più consapevole di quel che si deve fare, chi crede di protestare venendo meno al compito al proprio compito, cioè al proprio lavoro. Mm-hmm. Io penso che tutte le persone normali come me, che hanno lavorato tanto una vita intera e ci hanno creduto, io personalmente sono stata insegnante e insieme con tanti altri abbiamo costruito progetti, ma nella vita si costruiscono progetti, non si viene meno, quindi ci vuole energia e anche forse quella, la chiamano autostima, chiamiamola come vogliamo, fiducia in sé, quella che noi con tanta fatica noi insegnanti abbiamo cercato di infondere negli animi dei ragazzi, fino a ieri si può dire. È quello che ci manca, la fiducia in noi stessi e la volontà di fare, perché io sono sicura che in un'Italia così adesso, in difficoltà, così com'è, ognuno di noi nel suo piccolo darà qualcosa e piccola, quella piccola cosa di ognuno di noi potrebbe essere proprio la nostra salvezza. Facciamo nostro il tuo auspicio, fiducia e volontà di fare, insomma. Grazie, molto, molto meglio, molto più forte, molto più incisivo di una bacchetta magica. Grazie davvero Amelia. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta, oppure via sms al 349 238 6666. Come tanto ti ho sognato di volare, oh oh, come loro volevo andar più su, oh oh oh, dove il cielo è di un bel colore azzurro, un azzurro che tira quasi al blu, ma all'improvviso mi sono ribaltato, la testa in basso, i piedi in su, sotto di me c'era una cosa immensa. Ero sopra l'aeroporto di Malpensa. L'aeroporto di Malpensa è molto bello. L'aeroporto di Malpensa è tutto in piano. L'aeroporto di Malpensa è fatto a mano. È l'aeroporto che piace all'aeroplano. All'aeroporto di Malpensa c'è chi dorme, c'è chi pensa, chi non c'ha la coincidenza e resta lì. Sono Cocchi e Renato che giocano con le parole, con le note, parlando dell'aeroporto di Malpensa, per sdrammatizzare un po' l'argomento che andiamo a toccare adesso, un argomento tosto, importante, quando si tratta il tema degli invisibili. Invisibili perché troppo spesso non si vuol vedere. Abbiamo preso spunto da un bellissimo articolo di Zitta Dazzi su Repubblica Milano, intitolato Malpensa, quei 180 clochard che vivono tra terminal e check-in. 180 persone che vivono lì all'aeroporto di Malpensa. Volevamo capirci qualcosa di più, volevamo capire se è vero, volevamo capire com'è possibile che 180 persone abbiano scelto un aeroporto come dimora. E per questo abbiamo invitato Don Ruggero Camani, che è il cappellano di Malpensa. Buongiorno Don Ruggero, benvenuto a Si può fare. Buongiorno, tutto bene? Noi tutto bene, le auguro buon anno, le chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo per un attimo e torniamo immediatamente in diretta da lei. 800 24 00 24, il numero verde di Si può fare, oppure i vostri messaggi 349 238 6666, anche su Twitter e su Facebook, l'account è il mio personale, @ Federico Taddia, qui per dirci i vostri buoni propositi, qui per raccontarci i vostri desideri di cambiamento reale per questo 2015, ma qui anche per commentare le notizie di cui parliamo con i vostri interventi. Vi ho detto che saremmo andati a Malpensa e lo avremmo fatto con Don Ruggero Camani, che è qua con noi. Eccoci Don Ruggero, ancora buona giornata. Auguri, buon anno. Buon anno, bella voce, vivace, sveglia, attiva. Don Ruggero, 71 anni, cappellano di Malpensa. E alcuni giorni fa c'è stata la visita del Cardinal Scola all'aeroporto. e c'è stata anche, viene definita un po' una sorpresa, anche se credo che sorpresa non sia. Quello che succede là, al di là dei trolley, al di là delle persone che corrono per prendere un aereo, al di là della quotidianità di Malpensa, è una città nascosta dove ci sono persone che hanno scelto di nascondersi, hanno scelto di viverci, e lei è lì al loro fianco. E chi sono queste persone? Sì, una piccola correzione, i miei certo. anni non voglio rubarli, sono 78, non 71. Chiedo scusa, c'era un piccolo refuso, ma no, per non fare confusione magari con qualcun altro. Sì. 78 anni. Queste persone sono di diversa estrazione, direi 50% italiani, 50% stranieri. Sono un numero molto alternante perché ne risente la stagione, ad esempio adesso con il freddo aumentano soprattutto di notte, la media ormai è calcolata sui 180 persone, chi con residenza temporanea vuol dire anche solo magari 10, 12, 15 giorni e chi purtroppo anni vuol dire anche 4, 5, 6 anni. Ultimamente è deceduta una persona che era qui da 10 anni. Ma, a fare un esempio, Don Ruggero, ci sono ampi spazi, Malpensa la conosciamo, tanti luoghi aperti, queste persone hanno libero accesso, possono entrare dove vogliono e lì si risiedono, cioè, stiamo parlando di anni, ci sono persone che da anni che sono lì. Sì, ma l'accesso all'aeroporto è un luogo pubblico, dunque se uno non delinque ha il diritto di abitarci, se non delinque, ecco che occupa quegli spazi che non siano di disturbo agli altri. E soprattutto la notte, ecco che trovano sistemazione sulle panche dove di solito c'è le sale di aspetto, oppure vicino ai ristoranti, eccetera. E alcune di queste persone in parte cercano di raccogliere anche qualche soldo facendo il carrellista, vero? Se ho letto bene dall'articolo. Sì, è una piaga che bisognerebbe risolvere, che si sta cercando una soluzione per rendere più, usiamo il termine, accettabile anche questo tipo di servizio, perché da un lato favorisce appunto questi, soprattutto uomini e giovani che si prestano, di solito la mattina dalle 4 alle 5, alle 6, dipende, perché è il momento del flusso delle partenze. Loro si presentano, le persone che arrivano favoriscono il passaggio e l'aiuto per trasportare il bagaglio fino ai check-in e ricevono una mancia logicamente libera e così si fanno la loro piccola giornata. Questa è l'attività principale. Molti invece hanno altri piccoli impegni, lavori intorno nei paesi vicini, Galarate, insomma Lombardo, eccetera. Leggo la storia di Emilietta, signora nata nel 1939 a Padova, signora che da è ospite fissa all'aeroporto da 16 anni, così dice l'articolo. Emilietta è amica di tutti, Emilietta è una presenza di cui chi lavora all'aeroporto si è abituato. Tu immagino con Emilietta hai contatti, ci parli, che sono... Ma probabilmente sotto un altro nome, è una persona, no, capisco, credo di individuare chi è dal tempo che è qui, però non è identificata così, di solito si dice quella delle Mauritius, quella delle Mauritius, è una che vorrebbe tornare indietro dal suo figlio che è là, mentre suo figlio non la vuole avere, ecco perché non riceve il permesso d'ingresso. Lei non si rassegna a accettarlo, però è un dato di fatto. Sono storie umane, storie di disperazione, storie di bisogno. Cosa chiedono a te quando ti avvicini a queste persone? La prima cosa che chiedo è di essere ascoltate. Sì. Perché non c'è niente nella solitudine come non avere nessuno che ti ascolta. E allora prima del cibo chiedono quello. E poi molti aiuti di ogni tipo, soprattutto adesso con l'inverno, vestiario o addirittura coperte, possibilmente materassini o gonfiabili o comunque quelli già pronti più o meno di gomma piuma, insomma cose di urgenza, anche vestiario, ma in genere io preferisco mandarli negli istituti dove questo lo svolgono normalmente, vedi la cooperativa del PIME di Busto Arsizio che è attivissima in questo senso e dove io porto molto del materiale che viene raccolto a fianco della cappella e lo consegno a loro. Don Rogero, c'è il rischio che a tutto ciò ci si abitui, vero? Non tanto ci si rassegna, proprio ci si abitui. Tu sei lì oltre che per aiutare, anche per cercare di incidere, anche per cercare di portare un cambiamento che è possibile, e quali potrebbero essere delle possibili soluzioni? Due prospettive che io cerco di insistere. La prima, da due anni abbiamo a disposizione, cioè la possibilità di recuperare due edifici che potrebbero essere ristrutturati e adattati come la Casa della Carità a Milano, perché è la stessa Caritas che ne prenderebbe carico e ospiterebbe anche 30-40 persone, già sarebbe una soluzione abbastanza significativa. Purtroppo le burocrazie tra sindaco, o meglio comune, perché non è il sindaco in persona stessa, e l'ALER, che è poi la regione, non si riesce ad avere la cessione di questi due edifici, che invece sarebbero già una piccola soluzione. La seconda cosa che a mio avviso dovrebbe essere fatta, ma purtroppo l'argomento resta un po' sempre sospeso, c'era fino a tre anni fa, se non erro, un ufficio, chiamiamolo un posto, uno sportello della Caritas, che si prestava qui in aeroporto proprio all'assistenza a queste persone, ma soprattutto quelli che arrivavano dall'estero. Ora, purtroppo questo sportello è stato chiuso per necessità. Forse andrebbe preso a carico delle istituzioni anche dal punto di vista amministrativo, però dovrebbe essere fatto. La proposta viaggia, purtroppo a volte è solo galleggiante. Cappellanialinetamalpensa.webly.com, se non erro, è il sito per chi volesse dare un contributo, comunque volesse rendersi. Cappellania con due P e due L, cappellania trattino mezzo Malpensa .webly.com. Don Ruggero, ma cosa si prova ad avere un aeroporto come chiesa, come parrocchia, come luogo di vita pastorale? Non è una parrocchia perché non è ente certo. giuridico, è solo una cappellania, perciò usiamo il termine più semplice, è un servizio. Ora, è un servizio di assistenza. Qui purtroppo nel senso non negativo, ma di rincrescimento, non è che siano i sacramenti l'aspetto principale, perché adesso a volte ad esso non si arriva, anche perché si ha a che fare con tutte le religioni. Per cui non è che io arrivo a portare la comunione o a confessare sempre le persone, i musulmani non lo fanno, certo. mentre invece un rapporto molto frequente proprio con questa categoria di persone, molto ma molto frequente. Qui l'aspetto di servizio è quello della caritas cosiddetta, ossia dell'attenzione alle persone, dell'amore verso le persone, che può fare una certa pressione e una certa, diciamo così, veramente assistenza. È quello che cercano. E a questo proposito, oltre ad esserci appunto uno sportello della Caritas, io sto invocando qualcuno che possa venire a collaborare, ma giustamente anche il Cardinal Scholl, a cui ne abbiamo accennato, oggi come oggi non è facile trovare un sacerdote che possa essere messo a disposizione. D'altronde sarà una cosa che dovranno per forza prendere in considerazione, perché io alla mia età non so quanto tempo ancora posso reggere. Ci auguriamo ancora tanto tempo, però immagino la preoccupazione. Ci sono però dei volontari al tuo fianco? Sì, ci sono, soprattutto ho lasciato, come sempre in tutti i posti dove sono stato, libertà al laicato, alle persone non religiose, di fare l'amministrazione. Io non tratto assolutamente nessun tipo di contabilità, e questo è già uno sgravio non indifferente. Poi ho persone che collaborano per il mantenimento dell'ordine della cappella e per le manifestazioni. Vedi adesso, quando la visita del cardinale ha occupato tantissimo spazio di tempo e oltre che di spazio materiale, moltissimi hanno collaborato. Grazie davvero Don Ruggero, in bocca al lupo, e insomma complimenti per questo lavoro intenso. No, non c'è da complimentarci, cerco di fare il mio dovere nel limite del possibile, con tanta gioia, perché posso permettermi? Sì. Ecco, una delle cose più belle che si verificano, purtroppo frequentemente da un lato, ma per fortuna dall'altro, che devo celebrare la Santa Messa da solo. perché pur essendoci l'avviso agli altoparlanti non sempre qualcuno può partecipare. Ebbene, in quel momento sono uno dei momenti più belli, perché non ci sono più mille persone davanti, ma c'è l'umanità intera. E allora sono libero di occupare il tempo che voglio e parlare con tutti quelli che voglio. Buon anno, Don Ruggero. Tanti buon lavoro. Auguri a voi, grazie, grazie. Questo è Si può fare, questa è la storia di chi ha scelto, è stato costretto a trovare l'aeroporto di Malpensa come dimora. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, per raccontare le vostre esperienze anche di volontariato, per dirci qual è il vostro desiderio di cambiamento, un'ipotetica bacchetta magica per questo 2015, dove e come la vorreste usare. Da Roma ci chiama Luca. Ciao Luca, buon anno. Buon anno, buon 2015. Buon 2015 a te. Di cosa ti occupi nella vita? Oh, adesso sono fuori dall'ingranaggio della vita, del lavoro. Sono pensionato. Sono pensionato e chiaramente molto, molto tempo libero da dedicare alle letture, all'aggiornamento, diciamo, sia attraverso i quotidiani che attraverso i periodici quindicinali, relazioni umane, teatro, cinema, visite di siti gastronomici, territorio, mostre, pitture. Beh, insomma, eccetera. Questo è uno spot alla pensione, il pensionamento come punto di partenza, come vero punto di ripartenza, no, come no, punto come, di svolta. Come recupero di cose non fatte nell'età giovanile, perché tutto si rimanda, ma anche nel caso del, diciamo, di leggere i libri, il problema è che presi dall'impegno, diciamo, prevalente del dover essere assidui nelle tematiche del lavoro, negli aggiornamenti professionali, si comprano dei libri di cui si è letto delle buone recensioni formativi e si mettono lì da parte in attesa di tempi migliori. Adesso è quel tempo migliore per poter digerire tutto quello che si è rimandato. Quindi digerire e ruminare poi durante le discussioni con gli amici, con i conoscenti, eccetera. Luca, ci hai chiamato perché qual è il tuo auspicio per questo 2015? Niente, io credo, dalla mia esperienza fatta negli anni che ho vissuto in precedenza, che il nemico principale proprio del genere umano è la pigrizia. Poi la pigrizia porta a non spendersi né per sé né per gli altri, perché è bello comodo non spendere energie o pensare o semmai pagare un prezzo per aver espresso delle opinioni contro la normale ipocrisia che trovi nel mondo. Quindi puoi avere dei progetti e fare sempre dei progetti sia nell'età giovanile che nell'età dopo gli impegni principali di lavoro. E poi sapersi mettere a disposizione di questi progetti o umanitari o comunque familiari. Chiaramente quello che è il nemico principale è il conformismo, il non voler sottoporsi eventualmente ad essere giudicati e ad essere attaccati per le idee che uno ha ha maturato autonomamente. Prendiamo la pigrizia appunto come nemico numero uno per il tuo 2015, mi sembra anche questo un ottimo augurio. Grazie Luca, in bocca al lupo. 800 24 00 24, ricordo che per il buon auspicio più bello, più creativo, che più così magari sia in grado di sorprenderci o di farci sorridere oggi in omaggio, due biglietti per la mostra di Chagall qui a Milano. Adesso ci fermiamo il traffico e poi subito di nuovo in diretta con Si può fare. E chi sarà il campione? Già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più sante, è sempre più lontano, è sempre più distante. La storia di un bandito è la storia di un campione, per introdurre la prossima storia invece, che è una storia di sana quotidianità, una denuncia che parte da Facebook diventa virale, si aggiudica tanti mi piace e inizia a fare il giro della rete, che diventa megafono di quello che è una sorta di tua ingiustizia che vuoi urlare, lo fai virtualmente, ma poi per fortuna, avendo queste cose poi ricadute reali nella tua vita, scaturisce una sorta di solidarietà, e a volte il cambiamento parte proprio da qui. Questo è quello che è successo a Sara Poluzzi, che sulla sua pagina Facebook ha raccontato la sua storia, e la sua storia ha fatto il giro del web. E Sara è qua con noi. Ciao Sara. Ciao. Ciao, bene, buon anno. Buon anno. Ti sei arrabbiata, vero? Molto. Allora, e dire che non mi arrabbio tanto di solito, però questo mi ha fatto proprio arrabbiare. Allora, sei di Bologna, giusto? Imola, di Imola, Bologna, Imola. No, sono di Bologna, sì. E vado a Imola tutti i giorni per lavoro. Ok. E la Repubblica, appunto, ha titolato la tua storia così: pedalando ho risparmiato 4 tonnellate di CO2, ora Trenitalia mi cancella l'abbonamento. Questa è la sintesi. Cos'è successo? È successo che allora io intanto uso il treno tutti i giorni per andare a lavorare, raggiungo il treno con la mia bici da corsa degli anni 80, la carico sul treno, poi faccio i miei 20 km 30 di treno, poi scendo dal treno e raggiungo con la stessa bicicletta il mio luogo di lavoro. Questo tutti i giorni? Sì, tutti i giorni da 8 anni, e lo faccio, adesso posso dire lo facevo purtroppo, con un abbonamento valido per la regione Emilia-Romagna, nato da un accordo tra la regione Emilia-Romagna e FIAB, che è la Federazione Italiana degli Amici della Bicicletta, che appunto consentiva ai pendolari come me di oltre all'abbonamento annuale, una cifra di 120 euro all'anno, utilizzare questo servizio a un costo tutto sommato accessibile. Certo. E quindi al biglietto avevi questo abbonamento forfettario che ti permetteva di caricare anche la bicicletta, e poi cos'è accaduto? È accaduto che è stato semplicemente annullato, proprio cancellato con un colpo di spugna, insieme a una revisione informatica e forse anche delle procedure all'interno di Trenitalia. Quindi questo biglietto, che veniva fatto a mano su una sorta di, con una procedura generica, diciamo, usata per tante cose, forse, non so, da quello che mi ha spiegato l'Italia, per questo abbonamento nel nuovo sistema informativo non c'era più posto, quindi semplicemente è stato cancellato. Faccio presente che non è possibile oggi stipulare un abbonamento mensile oppure avere alcuna agevolazione per caricare la bici sul treno, quindi io dovrei, secondo allo stato dei fatti, pagare 3,50 euro di biglietto tutti i giorni, il che mi porterebbe a un aggravio di circa 700-800 euro all'anno rispetto a quanto io oggi pago. Certo, quindi pagavo, ovviamente una cifra che diventa forse insostenibile, comunque che ti costringerà a rivedere un po' le tue scelte, no? Tu ti definisci una ciclo ferro pendolare, un po' per risparmiare soldi, un po' per risparmiare CO2, la mancanza di questo abbonamento potrebbe far saltare i tuoi piani. Hai bussato alle porte di Trenitalia e hai bussato anche alle porte della Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Cosa ti hanno detto? Diciamo, una cosa che mi ha fatto molto arrabbiare, però insomma, più che arrabbiare, cioè inizialmente ero un po' così, un po' sconvolta, perché cioè, è anche una questione, no, di un po' abitudine, però non è tanto un'abitudine comoda la mia, cioè è un'abitudine che comporta comunque impegno, comporta comunque questo, che cosa che dicevate prima, uscire dalla pigrizia, e io volendo potrei anche comprare un'auto e andare tutti i giorni al lavoro in auto. Però non lo voglio fare perché non rispecchia le mie idee, e quindi preferisco avere un impatto minore sul mondo andare in bicicletta, non che questo non mi costi fatica, soprattutto anche col tipo di servizio che Trenitalia offre. Comunque, per farla breve, la risposta che mi è stata data allo sportello da Trenitalia e anche insomma quando ho chiesto alla FIAB è stato un consiglio di dotarmi di una bici pieghevole. La bicicletta perché la bicicletta pieghevole non richiede l'acquisto di un biglietto supplementare? Esatto, non richiede l'acquisto di un biglietto supplementare, esatto. Inizialmente sono rimasta un po' così, un po' smarrita. Ho pensato che magari era ora di cambiare e che il mio modo di spostarmi non era più compatibile con la modernità. Alla fine oggi la bici pieghevole ce l'hanno in molti. Ho pensato, beh, vabbè, mi adatto e vado. Però questa cosa mi ha dato proprio molto fastidio. Ma non tanto perché io non posso comprarmi la bici pieghevole o perché, non lo so, mi attacchi al fatto che io voglio pedalare sulla mia bici e basta, nel senso non è una rigidità la mia, è che non trovo giusto che un qualche cosa come la mobilità, che è qualcosa di importantissimo per la nostra nazione, sia legato ad un accordo che un'associazione faticosamente fa con un'azienda, che alla fine Italia è un'azienda, che offre servizi essenziali, ma è un'azienda. E non ci sia nessuno a livello politico che crea un quadro, che crea un contesto in cui tutti gli aspetti della mobilità vengono toccati. E quindi io, in questo sentirmi debole in questo momento, inizialmente mi sono sentita un po' appunto smarrita e poi ho cominciato a cercare consensi. Di consensi ne ho trovati tanti e mi ha fatto molto piacere. Adesso io spero che appunto la politica, la regione e l'assessorato ai trasporti mi risponda, perché non è giusto neanche. E allora inizialmente mi sono quasi più arrabbiata con FIAB che appunto per questa risposta, perché mi sono sentita quasi tradita dagli amici, no? In realtà però tutto sommato sì, cioè è stata una risposta infelice dal mio punto di vista, però il tema vero è che serve un qualcosa di strutturale. E poi certo, in questi giorni, avendo contatto con tante persone anche insomma dell'ambiente appunto del volontariato, insomma a della favore società della civile, certo. Esatto, ho avuto modo di approfondire e ho capito che, uscendo un po' dal mio piccolo, no? Perché io prima ero proprio nella mia quotidianità, io facevo il mio dovere, andavo in bici e basta. Oggi ho capito che effettivamente non c'è un qualcosa di strutturale, di nazionale, legato al trasporto delle bici sui treni. Quindi c'è questo biglietto da 3,50 euro e poi a macchia di leopardo. Con tanta fatica la FIAB ha stretto degli accordi che però valgono per singole regioni, quindi per esempio in Puglia il trasporto bici è gratis, in Lombardia c'è ma costa la metà, in Toscana c'era ma non c'è più. Insomma, la tua denuncia personale è diventato, ti ha portato ad aprire gli occhi su, forse questo è il tuo buon auspicio, la tua voglia di cambiamento per il 2015, l'hai scelto pedalando invece che su una bacchetta magica. Sara, però confessalo, sei andata a vedere il prezzo o comunque qualche modello di bici pieghevole o non ancora? Non ancora. fedelissima la tua bici da corsa anni 80, brava! Grazie davvero Sara, ho messo sulle nostre pagine Twitter e Facebook la tua pagina, comunque Sara Poluzzi, è facile da trovare, così potete comunque entrare in contatto con lei, leggere la denuncia, vedere le foto della bicicletta e magari fare massa critica, che insomma quello è il modo per cambiare davvero le cose a livello nazionale. In bocca al lupo e buona pedalata, ciao Sara, buon anno. Grazie, ciao, buon anno. 800240024, il numero verde per raccontarci i vostri buoni auspici, le vostre speranze, le vostre voglie di cambiamento o anche le vostre storie di andare a lavoro in bicicletta utilizzando il treno, se siete anche voi protagonisti di questo. 800240024, come ha fatto Alex da Sassari. Ciao Alex. Sì, buongiorno a lei e al tutto lo spettabile staff di Radio 24, anche buon anno comunque a voi. Grazie davvero per il saluto formale, Alex. Qual è il tuo buon auspicio? Anche Beato. Il tuo desiderio per il 2015 qual allora, è? Il mio desiderio, che penso riguardi milioni, forse 8 milioni, 6 milioni di persone, è quello di trovare finalmente lavoro dopo tanti anni, perché purtroppo senza lavoro non c'è futuro, non si possono fare i figli, non si può fare una famiglia, praticamente non si può fare niente. Insomma, è certo, non si può vivere il proprio presente né impostare il proprio futuro. Tu quanti anni hai, Alex? Oppure c'è il rischio, purtroppo, e tanta solidità, di trovarsi poi, chissà, forse anche all'aeroporto della Malpensa. Hai chiaramente sentito. È una battuta amara, tanta solidità a quelle persone che sono in quell'aeroporto, se mi stanno ascoltando in questo momento. Quanti anni hai tu, Alex? Ho 42 anni, viaggio sui 43. E da quant'è che non lavori? Guarda, ormai ho perso il conto, penso che sono più di 4 anni. Bussa alle porte, mandi curriculum, ti proponi. Sì, guarda, diciamo che forse sono sceso su quei famosi NEET, non so, è quella fascia di popolazione che un po' ha perso le speranze, oppure l'alternativa, perché se tu mandi e poi non c'è riscontro, o l'alternativa è andare all'estero, praticamente c'è mezza Sardegna all'estero. Abbiamo tanti stati in Inghilterra, in Germania, ma è veramente assurdo. Qua a Sassari abbiamo tanti cinesi che sicuramente fanno un onesto lavoro, ma perdono attività commerciali, e noi siamo obbligati ad andare in Germania e in Inghilterra. C'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non quadra. Speriamo che sia un 2015 tosto, non perdere le speranze, continua. Che la politica ci dia veramente finalmente una mano vera, però non parole, ma veramente fatti. Grazie Alex, ciao, buon anno. Ciao, ciao, ciao. 800 24 00 24, con questo appello chiudiamo la prima parte di Si può fare, ma torniamo in diretta con le vostre storie e con le nostre storie subito dopo il GR. Ok, ci fermiamo, quindi subito dopo il GR ancora qua con noi. Si può fare, cronache da un paese migliore. Ancora buon sabato da Federico Taddia, oggi qui al posto di Alessio Maurizio e Carlo Gabbardini. Questo è Loro Si Può Fare, la giostra delle vacanze mi ha portato qui invece a sostituirli e raccontare questa Italia migliore con le vostre storie, i vostri auspici, le vostre bacchette magiche per questo 2015. 800 24 00 24 il numero verde, oppure via sms al 349 238 6666. Cosa vi piacerebbe davvero cambiare? Dove vorreste portare il vostro impegno reale, i vostri sforzi, le vostre energie? Il messaggio più bello, il messaggio così più illuminato, si porterà a casa 2 biglietti omaggio per la mostra di Chagall qui a Milano. 800 24 00 24, le vostre storie, e poi ci sono le belle storie dell'attualità. Sembra azzurro come fiume Giordano, la tua faccia di uccellino ha un cuore catalano. Dormi, dormi, vola via da te. Dormi, dormi, vola via da qui, finché sei. Questa Nina Nanna, cantata da Gianna Nannini, andiamo nella sua Toscana per raccontare quello che probabilmente tanti di voi ieri hanno letto sui quotidiani. Partorisce una bambina e questa bambina viene abbandonata nella nuova ruota. È successo nel reparto maternità di Carreggi, siamo a Firenze. Per la prima volta dopo 2 anni dall'inaugurazione è stata inaugurata, è stata usata questa culla riscaldata, è stata ripresa l'usanza, no, della cassetta in cui abbandonare i neonati. Questa cassetta, questa antica ruota è stata sostituita da una sorta di incubatrice, una sorta di culla che subito allerta i medici. Garantendo l'ha nominato per la madre, dando quindi la possibilità, quando questo gesto disperato d'amore, comunque dare la possibilità a una nuova vita. Comunque, quello che è successo, ma al di là della cronaca, quella che è questa nuova ruota voluta dalla Fondazione Francesca Rava insieme a Network KPMG, di questo progetto che si chiama Nina Ho, che vede già 5 ospedali mi pare in Italia dove hanno installato la culla. Di tutto questo ne vogliamo parlare, anche proprio per spiegare cos'è, come funziona, e fare informazione, perché è il modo migliore per comunicare quello che di fatto è un servizio. fantastico per le mamme. Con noi c'è Gele Collier, segue il progetto Ninna O dal 2008 per la fondazione KPMG. Buongiorno Gele. Buongiorno Federico. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buon anno. Buon anno. Credo, beh, insomma, è sempre una vita nuova che nasce, è un gesto d'amore disperato. C'è la disperazione di una mamma che abbandona il proprio figlio, però c'è anche la bella notizia: questo figlio può avere una vita, può avere un futuro, può avere una speranza. Sicuramente sarà presto adottato, ovviamente deve seguire tutto il protocollo necessario, però è ovviamente per la bimba un ottimo inizio a 2015. È sempre un po' triste che ci sono diverse persone che sono costrette a questo gesto d'amore, come ha detto lei. Nostra speranza, quando abbiamo iniziato questo progetto con la Fondazione Francesco Rave nel 2008, era proprio di diffondere al più numero di donne disperate possibile che c'è questa alternativa, che il progetto è nato a Varese quando un neonato è stato abbandonato in un cassonetto. Sì. E il primario ha chiesto l'installazione di una culla proprio per aiutare le persone, per invitare queste persone di avvicinarsi alle strutture ospedaliere, perché solo in questo modo le donne possono legittimamente abbandonare un neonato, devono essere accolto in un ospedale o possono abbandonare in queste culle termiche nelle strutture designate. Certo. Allora, la nostra speranza era proprio questa diffusione delle notizie che questa possibilità esiste, è una possibilità concreta. Ma quante sono le culle oggi in Italia? Complessivamente non vorrei mettere la mano sul fuoco, lo so che nostre sono 5. Sì. E ci sono anche culle a Milano, a Roma, che sono aderite al campagna di comunicazione. Inoltre ci sono altre strutture, altre associazioni che hanno installato culle in Italia, anche a Palermo. C'era un caso recente a Palermo, ci sono mi sembra 2 culle a Palermo, non sono nostre e non sono necessariamente in strutture ospedaliere, magari sono presso strutture private. Ho capito. E intanto diamo il sito internet del vostro progetto, che è ninnao.org. Gele, l'anonimato per la madre è assolutamente garantito, ovvero uno dei presupposti affinché questo progetto possa funzionare, possa avere un senso anche. Esattamente. Mm-hmm. Esattamente. E cosa succede nel momento in cui un neonato viene abbandonato in questa culla? Subito l'ospedale è allertato in automatico? Quando una culla viene installata, viene installata anche con tutti i collegamenti necessari per avvisare il reparto non appena si chiude lo sportellino. Parte l'allarme e così il neonato è portato direttamente nel reparto per tutte le cure necessarie, perché ovviamente non avendo una storia clinica non è stato seguito, magari avrà delle complicazioni, sembra che non sia questo il caso, allora siamo tutti felici per questa neonata. Uh-huh. E qual è stato il primo sentimento, al di là di felicità, abbiamo detto una felicità relativa, perché dietro c'è sempre una storia, c'è sempre una tragedia, insomma, dietro un abbandono. C'è stato anche però un elemento di sorpresa che questa culla fosse finalmente utilizzata? Sì, ovviamente era una nostra, non è nostra, nostro obiettivo che le persone utilizzano la culla. Certo. L'obiettivo sarebbe invitarli di presentarsi in ospedale per essere seguito. Sì, siamo ovviamente soddisfatto che l'investimento non è in vano, che ovviamente una vita è stata accolta in questa culla. Un po' di dispiacere che non riusciamo a fare di più con questa campagna di comunicazione, anche se ci siamo mossi con i free press, con i pendoli nei mezzi pubblici, con spot radio e televisivo, con certo. Tutti i mezzi possibili che abbiamo, non riusciamo a avvicinare questo gruppo di persone che hanno questo tipo di problema. Adesso stiamo svolgendo anche un'indagine più approfondita assieme alla Società Italiana di Neonatologia per cercare di individuare meglio il campione da raggiungere, in modo che possiamo predisporre magari i nostri informativi in lingue diverse. Sono già in 6 lingue, ma magari stiamo sbagliando lingua, magari arrivare ai consultori per cercare di capire meglio come possiamo intervenire, convincere queste persone. Prevenire, comunque dire che insomma lì c'è qualcuno disposto ad aiutare. ninnao.org il sito per il progetto. Grazie davvero Gail, insomma buon lavoro a te, gran a voi, piacere. A tutto il team, grazie. Anche a voi, buongiorno. Ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando poi ancora qua in diretta con Si Può Fare. E facciamolo questo paese migliore, facciamolo insieme. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, invece per i vostri SMS da Macerata. Ci ha chiamato Caterina. Ciao Caterina. Pronto? Eccoti, ciao, buon anno. Ciao, buon anno a tutti. Stiamo raccogliendo gli auspici, stiamo raccogliendo le voglie, i desideri legati a così un'ipotetica bacchetta magica che ahimè non esiste, però perché non sognare, perché anche non sognare cose fattibili con un po' di impegno. Qual è il tuo auspicio, qual è la tua storia per questo 2015? Allora, il mio auspicio è prima di tutto di dare una grandissima spinta all'Italia e soprattutto ai giovani italiani in Italia e all'estero. Io ho 23 anni e ho studiato, vengo da Macerata, quindi da una piccola realtà di provincia. Sì. E ho studiato a Venezia, alla Triennale, ho studiato lingue, e ho studiato il francese e il russo, però alle superiori avevo già studiato l'inglese e lo spagnolo. E al terzo anno ho deciso di fare un Erasmus in Francia e poi, visto il grande arricchimento che mi ha portato questa esperienza, ho deciso di fare una doppia laurea tra Ca' Foscari e la Sorbona, e quindi ora sto studiando principalmente il francese, ma continuo a seguire dei corsi di russo in un'università che si chiama Inalco. Ma la mia finalità è quella di, imparando però le altre lingue, di trasmettere alle persone di cui conosco la lingua e la cultura la mia cultura e la mia lingua di partenza, cioè l'italiano. Sono una grandissima appassionata dell'Italia e credo che, avendo anche viaggiato molto, avendo vissuto un po' anche in Russia e viaggiando un po' in tutto il mondo, di portare proprio la bellezza dell'Italia, perché l'Italia è simbolo di storia, arte, cultura, civiltà, eccetera, eccetera. Potrei continuare per ore, per cui anche se questo comporta tantissimi sacrifici per me, perché il futuro non è per niente roseo, mi piacerebbe molto trasmettere in qualche modo quello che è l'Italia. Cioè, Caterina, beh, insomma, la tua storia, per fortuna, di quelle storie virtuose, no? Storie sì, di una giovanissima, di una storia di una persona curiosa, di una persona sicuramente con tante competenze, tanta voglia di fare, tanta voglia di studiare. E questo elemento, no? Prima dalla Sardegna ci hanno detto andiamo tutti all'estero perché stiamo cercando lavoro, tu dici vado all'estero perché voglio arricchirmi, perché voglio fare esperienze. Credo ci sia un equilibrio da cercare tra queste due dimensioni, equilibrio che tu probabilmente hai toccato e stai anche sperimentando, no? Sì, io vorrei prima di tutto fare la lettrice di italiano l'anno prossimo, sì. Per cui sto per partecipare a un bando che è fatto al Ministero dell'Istruzione Italiano, che scade il 27 gennaio. Unico problemino, il punteggio viene dato in base agli esami che uno ha dato in magistrale, sì. E io ho degli esami che sto facendo a Parigi, perché appunto ora sto per tornare a Parigi per finire gli esami, e non mi verranno registrati gli esami del primo semestre, perché per lentezze burocratiche non faranno in tempo entro il 27 gennaio, quando io finirò gli esami il 7 gennaio, per cui pur avendo 20 giorni non ci sarà tempo per fare questa... Mi hanno già risposto che non ci sarà tempo per fare questa cosa, e per cui è molto probabile che io abbia un punteggio minore per partecipare a questo bando, per fare un anno di la lettrice di italiano in Francia l'anno prossimo. Dai, speriamo che questo ritardo non sia davvero così vincolante per i tuoi sogni e il tuo futuro. Grazie davvero per la tua storia, grazie davvero per il tuo buon anno. Ciao Caterina. Sì. Ciao. Chi vuole insistere, impari prima a cedere. Chi vuole amare, prima deve imparare a rinunciare. Io so inventare, so improvvisare, senza regole né strutture, faccio come mi pare, come mi pare. Ciao Arianna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Anche tu hai fatto come ti pareva? No. Allora, ciao, buon anno, benvenuta. Allora, buon anno. Fabi Silvestri Gazzè con loro, come mi pare, questo bel pezzo che sta suggellando questa loro bellissima esperienza musicale per introdurre la prossima storia. Un'altra giovanissima, Arianna, quanti anni hai? Ho 18 anni. 18 anni? Sì. Hai la quinta superiore? Sono una primina, quindi ho finito la quinta superiore, mi sono immatricolata proprio a settembre all'Università di Giurisprudenza a Torino. Ok, quindi giovanissima, primina, persona a cui piace correre, a cui piace bruciare le tappe, e sei l'ideatrice di una app che si chiama Pick My Book. Esatto. L'app per comprare e vendere libri usati. Cosa ti sei inventata? Tutto è iniziato a giugno dell'ormai scorso anno, e mi avvicinavo appunto all'esame di maturità, e quindi sparsi per la mia stanza mi sono ritrovato tutti i libri che dovevo riprendere per studiare tutto, quindi, e mi è venuto in mente che nella mia stessa situazione c'erano molti altri studenti che avrebbero voluto come me vendere magari alcuni dei loro libri. Così mi sono ricordata appunto delle code interminabili davanti alle librerie, oppure di perdere semplicemente giorni davanti alla tua scuola a cercare di vendere i propri libri agli studenti e ai miei compagni più piccoli, e mi sono chiesto se non ci fosse un modo per velocizzare e semplificare appunto la compravendita di questi libri. E se non le ha appunto, che ormai tutti noi abbiamo uno smartphone, siamo appunto, utilizziamo questi smartphone, e quindi sono molto più veloci e molto più semplici e anche molto più comodi, ovunque tu ti trovi puoi utilizzarlo. E così mi sono rivolta a due miei amici più grandi, sì, che avevano già familiarità con le startup, infatti hanno già creato dei loro progetti, delle loro app, e mi hanno aiutato appunto a realizzare questo progetto, appunto anche con l'aiuto di un finanziamento appunto di due investitori di Cuneo, e a settembre siamo riusciti ad andare online con il sito appunto pickmybook.com, e mentre a ottobre siamo usciti sugli store sia iOS che Android con l'app di Pick My Book. Mm-hmm. Quindi è da pochi mesi che siamo in online sugli store, ma andiamo abbastanza bene. E funziona? Sì, funziona, abbiamo circa 10.000 libri caricati, 4.500 iscritti, e più o meno adesso abbiamo registrato più o meno sui 400-500 scambi di libri effettivi, perché il nostro sistema proprio avviene lo scambio avviene a mano, quindi non si perde neanche quell'aspetto sociale che magari si perde con un semplice sito o con un'app, mentre nel nostro lo scambio appunto i due compagni il compratore e il venditore si mettono in d'accordo e quindi lo scambio avviene tra di loro a mano. Ma quando dici a mano vuol dire che se lo possono, cioè se lo inviano sì, direttamente? Perché sì, è tutto geolocalizzato, quindi il libro, il venditore quando carica il libro sull'app sul sito, oltre a inserire le caratteristiche, quindi se è nuovo, quasi nuovo, usato, molto usato, e inserire soprattutto il prezzo, che è un'altra cosa che conviene rispetto alle librerie, perché le librerie ti danno il 25% magari del prezzo di copertina, mentre sull'app, sull'applicazione, quando anche lo vendi a mano da te, puoi scegliere il prezzo, quindi lo vuoi vendere a metà prezzo, lo puoi fare tranquillamente. E quindi oltre appunto a scegliere le caratteristiche e il prezzo, devi inserire dove ti trovi, quindi se sei di Torino inserisci sono di Torino, oppure la via, oppure la piazza principale, sì, o qualsiasi altra città, ovviamente in qualsiasi altra città, e poi va, il libro va in vendita. Un possibile compratore che sceglie quel libro guarderà, oltre le condizioni, oltre al prezzo, anche dove ti trovi, in modo che se sei vicino a casa sua, quando apriremo, a noi apriremo una chat sia sul sito o sull'app, dove si possono mettere d'accordo proprio il compratore e il venditore e si organizzeranno per un incontro, quindi l'incontro viene proprio a mano fisicamente, si dicono noi ci vediamo alle 13, se sono vicini ovviamente si dicono ci vediamo alle 13 nella piazza, nella via, certo. Ma e si incontrano. Insomma, tutto questo funziona, tutto questo è molto bello, il libro etichettato come molto usurato è un libro richiesto di solito, cioè diventa un valore aggiunto il fatto che sia molto usato? Sì e no, nel senso che il libro molto usato magari ha un prezzo minore. Quindi è appetibile per quello, non perché dietro c'è una storia o perché diventa cool. Ah, può anche essere quello, nel senso che ci sono anche dei libri che sono, però non vengono etichettati molto usati, nel senso che sono molto usati ma perché hanno molti anni e hanno un certo valore anche storico, diciamo, anche di sono libri, e quindi vengono venduti come usati, così. No, Arianna, parli ormai, cioè, come se fosse veramente del mestiere da anni, con una facilità. No, assoluta. Mi chiedevo, comunque una diciottenne durante la quarta, la quinta superiore, dove trova il tempo, dove trova le competenze, dove trova anche il coraggio per andare a bussare, per esempio, per cercare un finanziatore? Hai detto che comunque hai trovato anche chi ti finanziava questa cosa. Come ti orientavi? Cioè, chi guidava i tuoi passi? Appunto, fortunatamente avevo questi due amici molto più grandi di me, quindi conoscevo questi due ragazzi che mi hanno aiutato loro, perché avevano già familiarità, come ho detto, quindi io mi sono rivolta a loro appena mi è venuta in mente questa idea. Ho detto è possibile, è fattibile, è una cosa reale che si potrebbe veramente realizzare. Ero ovviamente spaesata, perché avendo 18 anni non ho ancora molta esperienza nel mondo del lavoro, e così mi sono rivolta a loro, che invece avevano molta esperienza, e loro mi hanno indirizzato, mi hanno aiutato e soprattutto mi hanno messo in contatto con questi finanziatori, e che ci hanno appunto, hanno creduto nel nostro progetto e hanno investito i loro soldi, e quindi hanno finanziato il progetto loro. Io ho avuto fortuna, perché appunto avevo queste persone che mi hanno guidato abbastanza. Adesso sono molto contenta del progetto che abbiamo fatto, delle cose che abbiamo, del nostro lavoro, e mi sento molto gratificata, perché ho visto realizzare una mia idea a quest'età, quindi mi sento molto soddisfatta. Ne hai tutte le ragioni. Mi dicono che ti sei iscritta a giurisprudenza perché hai un fratello che ha fatto economia e hai paura di rubargli il lavoro, vero? No, visto che l'Italia è un po' messa male, è meglio diversificare, almeno non abbiamo concorrenza in famiglia, perché sennò... hai visioni strategiche nel DNA, questo è innegabile. Pickmybook.com è il sito per conoscere questa applicazione, per comprare e vendere libri usati. Arianna Cortese, 19 anni, l'ideatrice. Ciao Arianna, buon anno e complimenti. Grazie, buon anno, grazie mille. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, per raccontarci i vostri buoni propositi, per così condividere con noi quelle che sono le vostre bacchette magiche. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo qua in diretta con una storia bellissima che ci porterà in Iraq. Passato il giorno della festa, ritorneremo a misurare quel posto vuoto sul piazzale. Domani il circo se ne va. Passato il giorno della festa, ci resta il piccolo calvario di spazi vuoti al calendario. Domani il circo se ne va. Girare il mondo con un naso rosso per far sorridere il cielo, là dove cadono bombe e lacrime. È un po' questa la missione che si è dato un clown. Il suo nome d'arte è il Pimpa, il suo vero nome è Marco Rodari, ha 38 anni, è di Leggiuno, in provincia di Varese. Da una decina d'anni lavora nelle corsie degli ospedali con la sua valigia di cartone. Da una decina d'anni però decide di passare lunghe parti delle sue estati, delle sue vacanze nelle zone di guerra, là dove è ancora più difficile trovare un sorriso, là dove è ancora più difficile fare arrivare la magia del circo, che poi è la magia della fantasia, è la magia della spontaneità, diventa un canale di comunicazione, diventa un canale per far sognare, per far sognare la pace, per far sognare nuove speranze. In queste settimane è a Baghdad e proprio con Baghdad ci colleghiamo e diamo il benvenuto a Marco Rodari, il Pimpa. Ciao Marco, buon anno. Ciao Federico. Ciao. Dove ti trovi in questo momento? Allora, in questo momento sono in una scuola dove ci sono dei bimbi che sono scappati dal nord e dall'ovest dell'Iraq per la guerra. E niente, stiamo giocando. Adesso per loro io sono al telefono con Babbo Natale, così mi lasciano mi lasciano parlare con te con tranquillità un attimo. È un onore per me essere Babbo Natale per pochi minuti, grazie. Ok, niente. È una scuola vicino a dove vivo, sì, dove appunto questi bambini che hanno perso la casa, hanno perso tutto durante la guerra, sono qui rifugiati in attesa di avere quantomeno i documenti, ecco, di tornare ad esistere. Mm-hmm. Tornare ad esistere. Io ho conosciuto Marco grazie a Facebook, grazie a un suo messaggio. Era sulla striscia di Gaza questo inverno, quest'estate, non lo facevano entrare, non lo facevano andare dai suoi bambini, non lo facevano andare nella parrocchia che era un po' la sua base da cui lavorare. Siamo entrati in contatto e ho scoperto la tua storia. Quanti viaggi hai alle spalle ormai, Marco? Ma per il mondo una trentina, diciamo, quasi tutti in Medio Oriente. Ho girovagato un pochino per il mondo, però poi sono 7-8 anni oramai che vago solo per il Medio Oriente, diciamo. E cosa appoggiandomi dimmi. Appoggiandoti di pure, scusami, a questi sacerdoti meravigliosi e suore del Verbo Incarnato che hanno chiese sparse ovunque in Medio Oriente, dall'Iraq a Gaza, l'Egitto, ovunque, ecco, diciamo. E quindi io vado, sono ospite loro e porto avanti quello che si può fare qui, ecco, giocare, sorridere, stare con loro Cosa succede portare un naso rosso in queste zone di guerra, in queste zone di tragedia, in queste zone di distruzione? Guarda, succede quello che sta succedendo adesso, no? Che è incredibile. Se i bambini, nonostante io sia uscito dalla scuola, se io sono qui ancora a ringraziarmi. Quindi questo è perché si crea un legame in queste situazioni che è straordinario. Come lo si crea anche in Italia nelle situazioni di difficoltà, ecco. E quindi portare un naso rosso è veramente un'emozione. Come si fa a descrivere Federico? È difficile, ecco. Per me è la mia vita, quindi sono felice. Oggi sono qua e sono felicissimo di essere qua. Mm-hmm. E come si fa a tornare a casa da un posto così? Cosa lasci ogni volta che riparti? La voglia di ritornarci, però dato che ci sono anche i bambini ci sono ovunque, no? E quindi anche a casa ho parecchie cose da fare. È chiaro, bisogna essere un attimino freddi, diciamo, no? Quando per salutarli e andare via, perché avrebbe proprio voglia di portarseli tutti via, però da queste situazioni, però non è possibile, non è neanche giusto, ecco. Uh-huh. E credo sia durissimo il lavoro negli ospedali quando sei in Italia, credo che sia durissimo il lavoro lì. Mi raccontavi anche quando eri a Gerusalemme che eri proprio all'ospedale pediatrico dove vedevi arrivare questi bambini, ogni volta che si apriva la porta dell'ambulanza non sapevi cosa sarebbe uscito. Come si fa a coltivare il sorriso anche in quelle situazioni? Cioè, tu la forza dove la trovi? Ma è molto importante, diciamo, avere un buon personaggio clown, perché l'essere umano davanti a queste cose basta, cade, crolla. Il clown non deve guardare queste cose, deve mettere tra virgolette da parte, poi non è possibile farlo completamente, però se uno mette da parte e entri e fai il clown come se fosse una situazione tra virgolette normale, poi è impossibile non affezionarsi a questi bambini anche quando metti il naso rosso, però è fondamentale questo, cercare di uscire non immedesimarsi nella situazione, perché sennò è inutile l'intervento, diciamo, no? Non è semplice, questa è la teoria, poi in pratica è molto complicato, perché quando vedi questi bambini arrivare senza un braccio, una gamba, in fin di vita, si mettono anche il naso rosso, ma sono dei momenti in cui si crolla. Però poi ci sono sempre loro, sempre i bimbi che riescono a dare una grande emozione. Poi ci sono anche in queste situazioni sempre delle cose belle che capitano, sembra impossibile, ma vivo tante situazioni belle qui in Iraq, come a Gaza, come in Italia, nei momenti di difficoltà. Uh-huh. E, Marco, com'è Baghdad oggi? Allora, Baghdad è una città sotto scorta, blindata praticamente, è una città, tu fai 20 metri, 30 metri di strada, c'è un poliziotto, un militare, qui davanti a casa abbiamo 6 blindati, è una città sotto scorta. Devo dire che rispetto a un anno e mezzo fa l'ho trovato un attimino più tranquillo dal punto di vista degli attentati, ecco, ce n'è uno, due di lievi dimensioni quotidiane, mentre qualche tempo fa erano molti di più. È chiaro che adesso, senza entrare in questioni di politica internazionale che mi competono poco, l'Iraq è un gran casino, e Baghdad lo è anche, perché veramente con quello che è successo in questi ultimi mesi è una nazione spaccata almeno in due, ecco, uh-huh. Quindi... E in questo gran casino spuntano nasi rossi, anche perché tra le tue attività non c'è solo quella di animazione, concedimi il termine, insieme ai bambini, ma c'è anche quello di formazione, per comunque lasciare tracce del Pimpa anche dopo la tua partenza. Sì, sì, sì, ecco, la cosa importante è chiaramente portare uno spettacolo, un sorriso, e poi se si riesce... Questo è forse il momento più difficile, ma qua ci siamo riusciti anche quest'anno a Baghdad, prendere qualche ragazzo grande, appassionato alla magia, e insegnarglielo, in modo tale che io torno a casa e loro vanno avanti. È il seme più difficile da mettere, questo, da piantare, perché non è semplice in una zona del mondo così difficile che qualcuno si metta a fare il clown. Però esistono dei clown a Gaza ed esistono dei clown qui a Baghdad della zona, e questo è importantissimo, davvero, è una soddisfazione grande, e io ti faccio i complimenti, perché mettersi a fare il clown, mettersi in gioco in questo modo, quando veramente fai fatica a mettere assieme il pranzo con la cena, è caspita. Marco, sei vestito da clown in questo momento? In questo momento a metà, diciamo a metà, ho il naso, e il cappellino, però a metà, perché sono lì nella scuola, lì, oramai questi bambini mi vedono tutti i giorni, quando non sono via per Baghdad a fare spettacoli da altre parti, e quindi diciamo di sì, poi io non è che abbia dei vestiti particolari, una volta che ho il mio cappellino e il mio naso io sono... Sono il Pimpa, sono il Pimpa, no, anche perché ti assicuro che qui, a parte il caldo, che adesso non c'è ma in alcune situazioni c'è, quindi è difficile anche truccarsi decorosamente, e poi a volte hai veramente mezzo minuto, ti vengono, ti prendono, ti portano in un posto e tu non è che puoi star lì a cambiarti, a vestirti, a fare, a restare. Anche quest'estate quando passava l'ambulanza a prendermi, io non potevo dirgli no, aspetta un attimo che devo mettere, mi devo vestire, mi devo truccare. E quindi oramai io faccio il clown più volte, tra virgolette, in borghese, che sono gli abiti tradizionali, ecco, del clown. Quando tornerai, Marco, quando torni in Italia? Una decina di giorni, perché mi hanno dato 30 giorni di visto per questioni di sicurezza qui. Torno in Italia e mi godo un po' l'Italia, poi per la prossima estate sarò ancora a Gaza e via. Okay. www.ilpimpa.it, il sito ufficiale di Marco Rodari, oppure su Facebook Clown, scritto proprio C-L-A-U-N, lineetta Pimpa, per vedere le tante foto e insomma accompagnarlo nelle sue avventure. Ci sono anche dei racconti molto belle, pagine scritte oltre che con la testa anche con il cuore, insomma, per raccontare questa esperienza di questo naso rosso in giro per il mondo. Ciao Marco, grazie. Bene, io ti ringrazio davvero e un saluto grande a tutti i bimbi che sono veramente gli eroi grandi di questo Iraq, di questa Gaza, di questo mondo. Ok, di loro davvero, che grazie. Porta il saluto di Babbo Natale anche, mi raccomando. Va bene. Okay. Ciao Marco, ciao. Grazie. Ciao. Marco Rodari, il Pimpa, si può fare 800 24 00 24, per le vostre telefonate in diretta subito dopo le informazioni per chi sta viaggiando. Strade in diretta. Buongiorno, il traffico intenso sulla 22 del Brennero si rallenta in direzione Brennero tra Verona Nord e Rovereto Nord, rallentamenti ma per lavori sulla 3 Salerno-Reggio Calabria tra Laino Borgo e Mormanno nelle due direzioni. Per traffico intenso sulla 7 Milano-Genova si incontrano code in uscita allo svincolo di Serravalle Scrivia sia verso Genova che in direzione Milano. Sempre sulla 7 in direzione Milano ricordiamo la chiusura dell'entrata di Genova a Bolzaneto per lavori. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24, le voci del paese migliore da Imperia. Antonella, ciao Antonella, buon anno. Buon anno anche a voi. Ciao. Come stai? Grazie, bene. Sarei meglio se riuscissi ad avere questa bacchetta magica per il mio paese di origine. Si chiama Mussomeli, è nel cuore della Sicilia, è un posto meraviglioso e la parte vecchia in questo momento calzerebbe a pennello perché sembra un presepe, mentre la parte nuova è lo scempio che noi abbiamo saputo fare, ecco, non abbiamo imparato niente dai nostri vecchi, abbiamo fatto delle case bruttissime, non abbiamo piantato un albero e soprattutto anche i ricchi di Mussomeli, sì, hanno lasciato che le loro case esternamente non siano mai state finite, senza il minimo di rispetto per chi abita di fronte o per chi arriva da noi o per l'ospite a cui vorremmo fare vedere le cose bellissime del nostro paese. E per il nostro paese intendo anche l'Italia, abbiamo veramente noi la magia nelle mani nel nostro paese, ma non abbiamo la cultura e il rispetto della bellezza che io considero fondamentale. Il concetto di bellezza estetica e morale, perché è morale la bellezza ed è economia la bellezza, perché quello che noi potremmo fare con il nostro paese è una cosa straordinaria. Ma la bacchetta magica bisognerebbe saperla usare. E allora se io ce l'avessi finirei tutte queste case che trasformerebbero la vita degli abitanti e soprattutto condurrebbero a un castello bellissimo. Questo sembra veramente il castello delle fiabe, è un castello chiaramontano, meraviglioso, unico nel suo genere, perché è ricavato da una roccia, da una roccia naturale che non si sa bene come sia finita lì, sì, in una valle splendida, che domina gli orizzonti infiniti di Sicilia, e in questi giorni si vede anche l'Etna in lontananza, pur essendo nel cuore della Sicilia. Si sente tutto, sai che nella tua voce, oltre che nelle tue parole, proprio nel tono, nei brividi che ci metti, si sente tutto l'amore per il tuo paese d'origine, sai? Io soffro, si sente l'amore, ma io quando vado a trovare mia madre, spessissimo, io soffro e c'è tutta l'impotenza di quella che è la nostra mancanza di cultura, del rispetto e della bellezza verso tutto. E per arrivare a questo castello che è meraviglioso, vi auguro prima o poi di poterlo vedere. Sappiate che l'ospitalità siciliana, direi, posso dire senza modestia, che è una delle più incredibili che vi possono capitare. E quindi andando verso questo castello c'è una serie infinita di gente che ha speculato su case orribili mai finite, sì. Che sono lì da 30, da 40 anni, e purtroppo quello dovrebbe essere il biglietto da visita di un posto così. Purtroppo, ecco, io finirei tutto. Esatto, purtroppo non basta una bacchetta magica per risolvere tutto, no, però credo che con la volontà, col desiderio, con la voglia di fare, la voglia di cambiamento, insomma, non dar persa la tua battaglia. Grazie davvero. No, io ci provo tutte le volte che vado e cerco di diffondere anche. Penso che dobbiamo veramente, abbiamo un dovere tutti verso il nostro paese che è l'Italia. Abbiamo ereditato una meraviglia e dobbiamo renderci tutti conto, in qualsiasi lavoro facciamo, dall'impiegato pubblico e soprattutto al politico, soprattutto. Eh certo, che questa meraviglia va tutelata, va diffusa, e dobbiamo forse essere noi ancora, dobbiamo essere noi i primi a meravigliarci ancora di quello che abbiamo attorno. Grazie davvero, ciao Antonella, buon anno, ciao. Grazie, buon anno a tutti voi, grazie. Lo psico pipistrello evita la luce, il mulo porta il padre e non si riproduce, il coccodrillo in cerca sempre di una preda, la preda fa di tutto perché lui la veda, i serpenti sono tanti, quasi quanto i santi, cambiano i vestiti, sono sporchi dentro, fuori eleganti, stai attenta. E con gli animali cantati da Mannarino andiamo a scoprire l'ultima bella storia di oggi, una storia paradossalmente natalizia, no? Il Natale dello zampone, il Natale del cotechino, il Natale dei pranzi e delle cene. E partendo da qui andiamo a scoprire la piccola fattoria degli animali. Siamo a Vigone, in provincia di Torino, là dove i suini muoiono di vecchiaia. Con noi Federica Trivelli. Ciao Federica, buon anno. Buongiorno, buon anno a tutti. Grazie per averci dedicato questo meraviglioso spazio. Colgo questo momento per augurare a tutti un meraviglioso 2015, che sia un anno di vittorie sociali e di successi, di salute e di amore, al fine di costituire tutti un pezzo in più di mondo migliore. Grazie, facciamo nostro il tuo auspicio. Federica, chi sono Spartacus, chi è Billo, quali sono le storie con cui convivi quotidianamente, storie di animali? Convivo giornalmente con battaglie spesso che si possono vincere, tante altre volte purtroppo che non è possibile superare. Le vittorie le viviamo brindando con le lacrime, assaporando ogni singolo momento. Purtroppo le sconfitte le sentiamo molto di più sulla pelle, però da ogni sconfitta noi cadiamo e ogni momento abbiamo la capacità di rialzarci e di diventare più forti al fine di vincere e di vincere per gli animali. Siamo un gruppo di cani sciolti, un gruppo di attivisti animalisti che da anni si impegna al fine di dare un messaggio al mondo e perché tutti possano rispettare gli animali. Mm-hmm. Ci siamo dedicati ai suini perché all'interno di una catena sociale sono gli ultimi degli ultimi, sono quelli che da sempre sono considerati il peggiore in sostanza. È vero che dal maiale non si è mai scartato nulla, però li deridono, vengono umiliati quando si pensa al maiale, si dice che brutto, puzza, invece assolutamente no. Noi abbiamo all'interno di questo rifugio suini che vengono sequestrati dalla polizia giudiziaria, quindi sì, ci vengono affidati dal tribunale, e ogni singolo capo arriva da situazioni angoscianti dove condizioni igieniche non sono a norma, dove ci sono allevamenti abusivi, dove l'ASL non interviene o interviene troppo poco e malvolentieri. Stiamo cercando di fare del nostro meglio, c'è così tanto da fare in questo mondo a livello sociale, c'è tanto da impegnarsi per gli anziani, per i bambini, per gli animali. In ogni singolo posto, se si ha la capacità di guardarsi intorno, c'è qualcosa da fare. Noi per vocazione personale abbiamo deciso di dedicarci agli animali, ma invitiamo tutti quanti nel tempo in cui loro possono dedicarsi a fare qualcosa per gli altri, perché c'è veramente tanto da fare per questo mondo. Sono una ventina attualmente gli animali ospitati nella tua fattoria, come hai detto tu, animali che provengono da situazioni di illegalità, allevamenti abusivi, animali che hanno sofferto, animali che lì vivono un altro destino. Federica, cosa fate oltre ad accudire questi animali, oltre a garantire loro una sana quotidianità? Non so, fate anche progetti didattici nelle scuole? Com'è questa storia, come continua? Guarda, ci stiamo lavorando su. Avremmo estremo piacere di invitare le scuole affinché gli insegnanti portassero all'interno di questa fattoria i bimbi. Noi adoriamo i bambini, i bimbi sono la speranza in un mondo migliore, e bambini educati al rispetto degli animali, quindi ad essere rispettosi all'interno di una società, diventano grandissimi uomini. Ci stiamo lavorando su, assolutamente, questo avverrà nel periodo primaverile, sì. Saranno invitate le scuole affinché i bimbi possano vedere in realtà animali liberi e capire che gli animali sono amici, sì, beh, e vanno certo trattati con rispetto. Assolutamente, ma Federica, tutto ciò è sovvenzionato da tuoi fondi privati, cioè ci metti tu i soldi tuoi per gestire la cosa? Cosa fai nella vita? Di cosa ti occupi tu? Al momento il progetto è autofinanziato. La fattoria, la piccola fattoria degli animali, esiste da aprile-maggio del 2010, benché il primo suino, dopo settimane di battaglie, sia stato liberato nel novembre del 2009. La fattoria ha iniziato ad avere la sua forma tra aprile e maggio del 2010, da lì sono iniziate le collaborazioni con la polizia, eccetera, vari volontari, e la fattoria è diventata quella che è oggi. Il progetto al momento si è autofinanziato, questo significa che sono la referente principale, nel senso che ha la responsabilità primaria degli animali, la firma con gli enti, il contatto diretto con le autorità, per cui se succede qualcosa ne vado io a livello penale, quindi è un impegno ed è un dovere morale che mi sono presa dalla A alla Z. Questa cosa mi assorbe pienamente. Al momento sì, è autofinanziata, ma vive anche grazie al supporto di preziosissime donazioni da parte di esterni di tutta Italia. Abbiamo anche dei donatori fuori dall'Italia. Io ringrazio queste persone che da anni ci seguono con affetto, con supporto, e che ci incitano, insomma, ad espanderci. Espansione del progetto è il nostro obiettivo primario. Per noi espanderci significa diffusione del messaggio e la possibilità possibilità di salvare ancora più animali. Senza estremismi, tra l'altro, che mi sembra che sia, insomma, il tuo giusto tono. La piccola fattoria degli animali, ha trovata su Facebook la bella storia di Federica Trivelli e dei 20 ospiti attuali della fattoria. Grazie Federica, buon anno e complimenti a te e a tutti. A tutte le persone che con te lavorano, ciao, ciao, ciao, ciao. E questo ciao va a tutti voi, questo è Si Può Fare. Beh, direi che i due biglietti per la mostra di Chagall vanno sicuramente alla storia che di Antonella, che ci ha raccontato del suo Mussumeli, del suo amore per il suo luogo d'origine. Si Può Fare torna domani, saremo in diretta anche domani mattina, 800 24 00 24, la puntata presto in podcast. L'appuntamento con me è a domani, ma non solo, perché alle 12 saremo qua ancora in diretta, ma con l'altra Europa. È un sabato così, insomma, passiamo da Si Può Fare all'Europa che ci piace raccontare. Ancora ciao, a fra poco con Federico Taddia.